I lavori di domani di Anna Marino. Cosa vuol dire essere un Chief Executive Officer del digitale? Trattandosi di un ruolo apicale, obiettivi, organizzazione e leadership sono elementi cardine per guidare le persone in azienda e ottenere i migliori risultati possibili. Inoltre, operando in un ambito trasversale che interessa tutti i comparti dell'economia, occorre saper gestire questa complessità con competenze eclettiche, costantemente aggiornate, oltre che con un'attitudine a guardare sempre oltre. E conoscere i trend delle diverse industrie e saperli anticipare e governare è un'abilità necessaria, però la digital transformation, opportunità cruciale per l'economia italiana, ha bisogno di competenza e responsabilità specifiche, oltre che di lavoro di squadra. Per questo la valorizzazione del capitale umano rimane una responsabilità fondamentale del Chief Executive Officer. Ci racconta tutto appunto Stefania Pompili, che è proprio Chief Executive Officer del digitale. Sono amministratore delegato di Soprasseria Italia, che è la branch italiana di uno dei leader europei della trasformazione digitale, e al fianco delle imprese italiane e internazionali implementiamo innovazione, miglioriamo i processi di business, governando e direzionando le evoluzioni del mercato. Ho la responsabilità di 1000 risorse su 7 sedi, da nord a sud, senza discriminazione. 2 centri di eccellenza nel meridione nati negli ultimi anni ed ero l'unica donna nel gruppo ad avere un ruolo di CEO, e tuttora, quando sono entrata nel 2017, tuttora sono l'unico amministratore delegato sulle varie country coperte dal gruppo. Ecco, l'unicità di essere donna si accompagna alla novità, diciamo, del ruolo che svolge, perché vogliamo un po' spiegare l'amministratore delegato del digital quale tipo, appunto, in base alla sua esperienza, di lavoro è, e un lavoro di domani, oltre che di oggi, ma all'interno degli ingredienti, diciamo, che si stanno formando, sviluppando, stanno diventando sempre più importanti. E così, quale lavoro è? Il lavoro è quello di capire, oltre a quello normale che un amministratore delegato deve fare, quindi di occuparsi della solidità economica finanziaria di un'azienda gestendo le operazioni, ma il lavoro principale è quella di dare visione su come le tecnologie stanno trasformando il mercato e fare dei piani di sviluppo e delle strategie molto incentrate anche sul recruiting e sull'assunzione delle persone che abbiano i giusti profili. Quindi è soprattutto un ruolo di definizione strategica dell'approccio e dell'evoluzione del nostro settore. L'ingrediente digitale è un ingrediente che praticamente c'è in tutta la giornata, un ingrediente digitale che si spalma su tutto il giorno. Ecco, qual è la giornata tipo di un amministratore delegato digitale? Potremmo fare un pre-lockdown e un post-lockdown. Diciamo, il post-lockdown lo gestiamo velocemente, call, e solo ultimamente abbiamo ripreso un po' di operatività concreta uscendo di casa, e ho ripreso ad andare sulle varie sedi ed incontrare le persone. Ancora devo dire molto e poco, perché quasi tutti i nostri collaboratori sono ancora in smart working, però pre-lockdown la mia giornata è prevalentemente visitare le sedi sui diversi territori, incontrare le persone, confrontarmi con loro, parlare con loro, sia le persone Soprasseria, ma anche i clienti, ascoltare i loro bisogni e le loro necessità. Quindi è una giornata che è fatta di incontri e un po' di operation e di gestione operativa, però molta interazione, molto confronto. Certo. Io sono abituata ad essere in campo per sentire la temperatura del campo, quindi parlare molto con le persone. Prima del lockdown ero solita fare un caffè con l'amministratore delegato, dove chiunque dei miei collaboratori era interessato ad avere uno scambio di opinioni con me poteva iscriversi o venire liberamente ed avere una discussione aperta. Questo è importante perché segnala anche il fatto che, come dire, il digitale è stata una necessità, ma non è l'unica opportunità, insomma, della nostra vita, e non toglie niente agli incontri personali, al fatto che comunque abbiano ancora validità. E l'ingrediente digitale è stato utile anche per gestire, appunto, nell'emergenza sanitaria il metodo, insomma, di lavoro e la continuità del lavoro. La formazione però è importante. Per arrivare fin qui, qual è stata? Allora, assolutamente oggi le lauree STEM danno uno sbocco sicuro ed assicurato, sono quelle più richieste, ma io non sottovaluterei assolutamente la formazione umanistica, perché sempre di più la contaminazione e l'unire lauree STEM e lauree umanistiche dà un punto di vista differente, un valore aggiunto, quindi direi che sempre più andiamo in un approccio ibridazione, sempre più nelle nostre aziende abbiamo umanisti, abbiamo esperti sociologi, perché sempre più la componente anche di interrelazione, quindi l'applicazione e l'uso etico della tecnologia è sempre predominante, un punto di attenzione fondamentale nella nostra azienda, ma in molte altre aziende. Ecco, in questo periodo di distanza ci sono dei siti, dei link, degli indirizzi virtuali in cui uno può farsi un'idea, informarsi e formarsi? Un po' tutte le università indirizzano, basta prendere uno studio che analizza il digital divide e quali sono le figure più richieste, che uno può farsi l'idea di qual è il percorso che può intraprendere. Poiché si parla tanto anche di gender gap, si parla tanto anche di equità nella distribuzione, insomma, sia dei compiti che dei guadagni, qual è la forchetta di guadagno per il suo lavoro anche a seconda della seniority, e soprattutto con questa aggiunta del digitale, che non è un'aggiunta, ormai è una necessità, anzi un obbligo avere nel proprio portafoglio della professione, così. Allora, se ci riferiamo al mio compenso, si colloca all'interno del range normale previsto per le figure apicali. Se vogliamo dare un parametro di valutazione ai ragazzi per capire quanto nel mondo del digitale si può guadagnare, le retribuzioni sono interessanti, quindi una seniority media guadagna tra i 50 e i 60 mila euro, fino a poi a poter avere opportunità di superare abbondantemente i 100 mila euro quando si arriva a livello di seniority molto alta. Quindi sono professioni comunque che sono ben pagate. Da questo punto di vista bisogna partire, insomma, dalle basi e capire, appunto, se è un lavoro molto ricercato, è un ruolo molto ricercato. Le aziende probabilmente hanno capito questo cambiamento, hanno capito e compreso che il digitale deve essere a tutti i livelli e soprattutto a livelli manageriali, perché va gestito e non va sottovalutato subito. Ecco, dove si può trovare questo lavoro? Dove è necessario? Nelle piccole e medie imprese, nelle grandi? Sono necessari assolutamente in tutti i settori, su qualsiasi azienda di qualsiasi dimensione, dalle grandissime le banche, le grandi aziende che operano in tutti i settori, nel manufacturing, nel retail, nel fashion, in tutti i settori stanno assumendo risorse con competenze digitali, ma anche le aziende medio-piccole hanno necessità di avere supporto, e quindi anche chi non volesse fare un percorso di azienda può impostare un'attività consulenziale a supporto delle aziende medie e piccole, che sono il tessuto predominante nel nostro territorio. Certo, a questo punto l'autoimpiego è una delle prospettive, appunto, di questo mondo digitale, perché si può anche, come dire, intervenire, essere autonomi nella gestione della propria professionalità a servizio, appunto, sia di grandi che di piccole medie imprese. E però, per la sua figura, che tipo di sviluppo vede? Cioè, quale sarà poi, visto che starà diventando sempre più importante, un po' un leader del cambiamento, diciamo un po' un faro, qualcuno che guida, e però guida nel senso di gestire anche tutte le altre professioni che al di sotto diventano tutte digitali? Assolutamente. E in smart working. Sì, è vero. Allora, qual è naturalmente andremo verso un'attenzione sempre maggiore alla diversity, all'inclusione. Le donne devono assumere ruoli ai vertici perché portano un punto di vista differente. Ci sono studi che dimostrano con i numeri ed oggettivamente che solitamente un'azienda guidata da una donna ha dei risultati migliori, ma non parlo di diversity in generale, di inclusione in generale, perché c'è un approccio diverso che assolutamente arricchisce. La tecnologia evolve molto rapidamente, ma al di là della competenza è fondamentale l'etica per governare questa tecnologia e per direzionarla. Quindi avremmo sempre più bisogno di professionisti che sappiano definire e delineare delle strategie, ma poi fare un'execution chiara delle strategie, cioè i progetti vanno fatti, vanno deliberati. Esatto, non basta solo la visione, ma un ultimo punto riguarda anche, e qui si riconnette con la sua figura di donna, l'unicità. Ecco, il digitale mette magari tutti sullo stesso piano e sullo stesso punto di partenza, ma come si fa e serve il digitale per l'integrazione tra la vita e il lavoro, soprattutto di una donna o di una famiglia? È fondamentale se usato in maniera corretta, perché integrazione e gestione della famiglia e del lavoro non è fare una call e contemporaneamente assistere i ragazzini o cucinare, perché questo mediamente è lo svantaggio che noi donne in questo periodo stiamo vivendo. Ci deve essere un effettivo bilanciamento e sempre più in questa integrazione tra vita nel work-life balance c'è bisogno di darsi delle regole sui tempi, cioè c'è bisogno di poi dividere tra lavoro e vita professionale nella flessibilità e nel recupero dei tempi che sono quelli di trasporto e quant'altro. Quindi assolutamente sì, ma non dobbiamo perdere il contatto umano. In questo periodo sto osservando le persone che tengono a rimanere in casa, a non voler più tornare in ufficio, che non è una reazione al momento. Dobbiamo riappropriarci del contatto fisico, è fondamentale, dobbiamo utilizzare correttamente il digitale per trovare un reale bilanciamento tra vita personale e vita professionale, perché il rischio che cogliamo è che diventa un tutt'uno e non c'è più distinzione.